9 in punto, la versione di Oscar. Buona giornata cari ascoltatori, buon venerdì 17 di dicembre. Il tema oggi non ha bisogno di grandi introduzioni. Vogliamo capire innanzitutto dai sindacati, da tutti i più rappresentativi, quindi avremo la FIMCISL, avremo la UIM, avremo la FIOM, avremo la FISMIC, il punto preciso che riguarda il confronto sullo stabilimento di Mirafiori nel gruppo Autofiat. Ricordo a tutti che veniamo da un cammino accordo interconfederale sui nuovi assetti contrattuali, inizio 2009, CGL non lo firma con l'idea di puntare molto più di quanto si facesse in passato sulla contrattazione decentrata e quindi salario di produttività, che è la maniera per portare più salario tassato solo al 10% nelle mani, nelle tasche dei lavoratori, e a fianco di più produttività, cioè un miglior utilizzo dei turni, impianti straordinari, più straordinari rispetto ai limiti del contratto nazionale contrattati con il sindacato, ma con un tetto più elevato e quindi con limiti anche sottoscritti dai sindacati che firmano questo tipo di impegni, poi a non proclamare scioperi quando ci sono questi straordinari. Si va poi alla firma del contratto dei metalmeccanici, la FIOM non firma perché è in applicazione dei principi dell'intesa sui nuovi assetti contrattuali del 2009. Ulteriore passo, tutto questo porta all'accordo su Pomigliano, per capirci queste nuove regole condivise portano all'accordo su Pomigliano, la FIOM non condivide, referendum passa al 62%, si va quindi a un passo ulteriore, la Federmeccanica, cioè l'associazione delle imprese meccaniche di Confindustria, va alla revoca del contratto, quello precedente a quello non firmato dalla FIOM, per chiarire che il contesto resta quello del contratto firmato senza FIOM, ma perché in applicazione delle deroghe. Su Mirafiori l'azienda pone una questione ulteriormente diversa e dice: no, tutto questo non basta, vediamo, verifichiamo una NewCo che nasce fuori da Federmeccanica, tenteremo di capire dai sindacati perché e per come, come valutano loro la disponibilità. Ricordo a tutti che ieri pomeriggio, l'altro ieri pomeriggio, Confindustria ha avuto due lunghe riunioni a Roma in cui la linea è, la trovate oggi sui giornali, a fianco alla Fiat per chiedere queste nuove condizioni di produttività, però verificare fino in fondo se esistono questioni di rappresentanza, e questo lo vedremo insieme agli sindacati. Qual è il punto della rappresentanza? Il punto è che non si può fare la deroga al contratto nazionale sul punto che riguarda la rappresentanza se la questione diventa quella, compresa negli accordi interconfederali invece del 93, che riguarda il diritto ad avere delegati sindacali per chi prende il 5% più dei voti per la RSU. In altre parole, l'azienda pensa: ma come faccio io a rendere governabili gli stabilimenti con queste nuove regole se anche chi non li firma i nuovi accordi poi può prendere i voti più del 5% nella rappresentanza interna e a quel punto godere dei diritti sindacali e magari fare come i Cobas a Pomigliano, che hanno già indetto lo sciopero contro gli straordinari fino al 2018. Ecco, questo è il punto, ed è un punto delicato perché sulla produttività e lo scambio più produttività più salario, sia pure con polemici confronti con CGL e FIOM, si era andati avanti. Adesso bisogna verificare se a Fiat Mirafiori c'è un punto nuovo che riguarda non produttività e salario ma altro oppure no. Diamo direttamente la parola ai sindacati, cominciamo con Claudio Chiarle, che è il segretario della FIMCISL di Torino e che può stare con noi solo pochi minuti, 8-9 minuti, perché poi c'ha il processo Thyssen, altra vicenda molto seria. Allora Chiarle, ci fa capire come stanno le cose a Torino? Beh, intanto buongiorno. Intanto vorrei dire questo, che Marchionne nel giro di poche settimane ha dato un'accelerazione fortissima al dibattito che c'è da 20 anni in Italia sul sistema delle relazioni industriali e sindacali. Questo forse alla fine è un bene, perché probabilmente non saremmo stati in grado di risolverlo senza questa accelerazione. Io direi più che accelerazione, senza questo grande investimento, cioè torna a parlare di industria e non di problemi occupazionali. Allora, io credo che nello specifico su Fiat, penso che in questo momento la difficoltà sia soprattutto dentro il sistema confindustriale, non sia più tanto un problema di trattativa tra organizzazioni sindacali e Fiat, perché mi pare che comunque quando la Fiat si è alzata dal tavolo venerdì scorso, avevamo da parte nostra la necessità di fare una verifica, un approfondimento su come tenere agganciata la nuova joint venture al contratto nazionale, e questo è possibile con un percorso, e quindi io credo che una soluzione ci sia già indicata, perché dobbiamo tenere presente che oggi la joint venture parte ma non ha dipendenti. Quindi noi dobbiamo fare in modo che nel momento in cui la joint venture ha un dipendente, e questa sia agganciata al contratto nazionale. Come? Definendo un settore auto specifico. Però questa per far capire chi ascolta e per vedere se anche ho capito io con lei, questa, cioè se farlo restare nell'ambito di un contratto, sia pure con deroghe, sperimentando un contratto, chiamiamolo federale, dell'auto, questa più o meno è anche questa è la linea di Confindustria. E la domanda che le faccio io è: se nella nuova Nuco l'impegno per trasferire i dipendenti e chi firma poi non può avere rappresentanti e diritti sindacali se vuole protestare, voi ci state o non ci state? Ma è questo il punto, perché chi firma ha diritto ad avere rappresentanti sindacali, perché questo è previsto dalla legge 300, dallo statuto. Si pone un problema probabilmente per chi non firma, questo sì, però io credo che sia a questo punto un problema di scelte che ogni sindacato deve fare, di assunzione di responsabilità. A fronte di un investimento, io credo che ogni grande sindacalista del passato ci insegnerebbe che in momento di difficoltà uno fa accordi anche difficili da gestire, in situazioni difficili, ma oggi Fiat, Fabbrica Italia, ci sta proponendo una prospettiva, sempre che il mercato rispetti i tempi e le esigenze, di sviluppo e di occupazione. Allora io credo che noi dobbiamo, in questo momento, un sindacalista deve privilegiare il lavoro, deve privilegiare l'occupazione, deve privilegiare la crescita industriale, e dentro questo, se oggi ha un momento di azione difensiva, costruirà poi la sua azione rivendicativa nel tempo. Quando mai si sono fatte le rivendicazioni in momenti di difficoltà? Si fanno quando c'è lo sviluppo. Questo vale anche per gestire la nostra condizione di sindacato. Quindi io credo che questo sia un problema di scelte tra chi vuole intraprendere una strada o non la vuole intraprendere. Non si può rivendicare i diritti se poi non c'è il lavoro, non ci sono i lavoratori, non c'è l'occupazione. Però mi pare di capire che lei dice: nei contatti con l'azienda noi siamo realisticamente ottimisti, non dico ottimisti, ma insomma ci sono gli elementi per andare avanti e chiudere rispetto all'azienda. Io sì, sono convinto che i nostri problemi dal punto di vista sindacale credo che siano stati superati. Credo che il percorso per tenere in prospettiva, non oggi, in prospettiva, la nuova joint venture dentro il contratto nazionale, il percorso sia delineato, si tratta di attuarlo. Dal punto di vista sindacale io penso che abbiamo ancora alcune criticità da affrontare e da risolvere, ma poi possiamo sicuramente dire che dal punto di vista sindacale ci siano le condizioni per fare l'accordo, riprecisando e definendo ancora bene alcune questioni che sono però, io ritengo, importanti rispetto alle risposte che i lavoratori ci hanno dato, sia nel questionario che la FIM ha fatto, sia nelle assemblee. Io penso che se siamo su questa strada, se Confindustria si chiarisce il suo interno nei rapporti con Fiat e con Marchionne sulla nuova joint venture, credo che noi potremo prima di Natale chiudere la partita. Allora, grazie Chiara, sentiamo la posizione di Federico Bellono, che è segretario generale della FIOM di Torino. La FIOM insieme alla CGIL sabato scende in piazza con una manifestazione, insomma, che dice: vogliamo lavoro e libertà. Ma al di là della manifestazione, come stanno le cose rispetto alle posizioni dell'azienda da una parte e ai contatti per Federauto con Federmeccanica e le convocazioni dall'altro per la FIOM invece, Bellono? Ma intanto va detto che a questo incontro di Federmeccanica noi non siamo stati invitati, perché non sono stati invitati coloro che hanno firmato l'accordo del 2009 sul contratto nazionale, che noi non riconosciamo, e quindi quello è un tavolo che non ci vede presenti, devo dire, non per nostra scelta, ma per scelta di chi quel tavolo ha deciso di limitarlo ad alcune organizzazioni sindacali. Per quanto riguarda la vicenda di Mirafiori, guardi, io mi ero fatto, direi a questo punto, forse qualche illusione di troppo quando all'inizio l'amministratore delegato di Fiat, Marchionne, venne al primo incontro e disse: l'accordo per Mirafiori è un foglio bianco che dobbiamo scrivere insieme. successivamente, già quel giorno, i suoi uomini al tavolo invece hanno riproposto, direi in maniera quasi proprio fotocopia, l'accordo che al suo tempo era stato proposto a Pomigliano e che la FIOM non aveva firmato. Peraltro noi già dall'incontro successivo abbiamo presentato su tutti i punti sui quali non eravamo d'accordo delle proposte di merito, sull'utilizzo degli impianti, ad esempio sulla flessibilità, proposte che non sono state prese in considerazione, devo dire. Aspetti, prima di procedere, ci fa capire meglio, perché quando dice non sono state prese in considerazione, cerchiamo di spiegare, cioè rispetto Io gliela dico, provo a dirgliela nel modo più semplice e sintetico possibile. C'è un problema di utilizzo degli impianti per assicurare, diciamo, il massimo della produttività. Non c'è, a nostro giudizio, invece, un problema di governabilità dello stabilimento. Un secondo le faccio osservare. Le cifre, che non sono ufficiali, perché l'azienda ci va con le guanti gialli su questa roba qua, però tra addetti ai lavori si dice negli stabilimenti di Fiat Auto in Italia c'erano due problemi sul governo, per così dire, appunto, punto che ha appena toccato. Cioè, per esempio, l'assenteismo era totalmente fuori regola, qua si parla di punte fino al 10, 11, 12%, cioè in media del 300% superiore alla media dell'assenteismo quotidiano nella manifattura industriale italiana. E il secondo stabilimento, oltre a Pomigliano, in cui tra addetti ai lavori girava questa voce, era che esattamente Mirafiori. È vero o non è vero? Non è vero, o meglio, su tutta questa vicenda si è costruita, devo dire, un'operazione molto propagandistica. Ricordo che qualche mese fa tutti dicevano che il problema dell'assenteismo era un problema specifico di Pomigliano, e si è costruito su questo, devo dire, anche un'opinione pubblica abbastanza diffusa. Dopodiché in questa settimana ci è stato spiegato che invece il problema dell'assenteismo a Mirafiori era decisamente maggiore di quanto non fosse a Pomigliano. Io vorrei che su questi dati ci fosse qualche ragionamento in più, anche perché, devo dirle onestamente, le percentuali che lei ha dichiarato non sono quelle che a me risultano, ma non sono neanche quelle che la Fiat ha portato al tavolo di Mirafiori. Io penso che il problema che noi abbiamo, che non è un problema di governabilità, basta vivere all'interno degli stabilimenti per saperlo, ci porta a dire che per quanto riguarda Mirafiori si può fare una trattativa che ad esempio riguardi turni, riguardi l'utilizzo degli impianti, ma che non necessariamente debba mettere in discussione i diritti e anche le condizioni di salute delle persone. Ricordo che stiamo parlando per Mirafiori, ma anche per Pomigliano a suo tempo, di lavoratori per buona parte addetti alle catene di montaggio, tanto che noi ad esempio sui turni non abbiamo sollevato problemi particolari, li abbiamo sollevati sulle pause, le abbiamo sollevate sullo spostamento a fine turno della mensa, perché in questo stabilimento anche la mensa è un momento di recupero fisiologico. Le ricordo che gli accordi che regolano questa materia sono stati definiti in anni recenti anche sulla base di azioni da parte delle autorità sanitarie. Quindi noi abbiamo detto: se dobbiamo costruire insieme un accordo, facciamolo. È evidente che se ci si ripropone esattamente quanto è stato a suo tempo proposto per Pomigliano, la FIOM non condivise quell'accordo e non condividerebbe un accordo identico per Mirafiori. Naturalmente a Mirafiori è successo dell'altro, anche se a nostro giudizio già da Pomigliano lo si poteva tranquillamente immaginare. Cioè, sono un po' stupito che alcuni oggi menino grande scandalo intorno al tema del contratto nazionale, perché già a Pomigliano era evidente che si sarebbe arrivati al punto in cui si è arrivati. E io devo dire che sono altrettanto stupito anche dalle prese di posizione, perlomeno alterne, di Confindustria, perché è evidente che noi siamo alle prese con un'azienda che ha un progetto che non c'entra nulla, non tanto col punto di vista nostro, ma che dal punto di vista delle relazioni industriali e dell'organizzazione della fabbrica esce anche dai tentativi che in questi mesi, in questi anni sono stati fatti da altre organizzazioni sindacali e anche dalle organizzazioni imprenditoriali per regolare in modi spesso da noi non condivisi i rapporti di lavoro. Faccio l'esempio concreto. Prego. Che faccio a tutti per vedere le diverse risposte, come l'ho chiesto, certo, a Chiarre della FIM. Lei e la sua organizzazione, di fronte all'impostazione, certo Marchionne è un grande acceleratore, io su questo sono d'accordo con quello che diceva Chiarle, e fa e rende avrà, anche abbastanza evidente... Avrà i suoi motivi... Ma adesso non stiamo parlando di quello. E forse anche i suoi problemi, ecco. Non lo so, certo, il problema è quello di tentare di saltare in groppa a una grande occasione di consolidamento mondiale con Chrysler, questo è ovvio che oramai siamo questo, c'è la scissione nel gruppo, del resto il gruppo faceva così, non aveva le risorse per crescere e investire, così invece trasforma il suo asset in ciò che conferisce nel gruppo americano e quindi si dà una chance di crescita mondiale. Prima c'era solo Polonia e Brasile che tirava e gli stabilimenti dell'auto non erano in utile e questo lo sappiamo tutti. Però detto questo, il punto adesso, senza allargarci alle strategie, ma invece la domanda che ho fatto a Chiarle faccio anche a lei. Per voi, la domanda di Marchionne che dice... Io in America faccio accordi con il sindacato ha accettato addirittura le paghe diversificate, eccetera, eccetera. Qui non chiedo niente di simile, ma chiedo un diverso utilizzo dei turni straordinari, eccetera, per avere la produttività. Però il punto di cui mi sono reso conto a Pomigliano è che anche chi non firma può continuare a protestare nello stabilimento. E questo, secondo me, non è giusto, non è corretto, non avviene nel resto del mondo dove è presente Fiat. Questa è la posizione di Marchionne e questa, secondo me, è uno degli elementi di novità su Mirafiori rispetto a Pomigliano. La vostra posizione è, caro Marchionne, possiamo parlarne di questo oppure levatelo dalla testa perché ci vuoi intaccare un diritto che è quello di, se abbiamo detto no, ci saremo comunque dentro e continueremo a obiettare, criticare, a rompere le scatole, a scioperare quando e se lo riterremo opportuno? Guardi, sì, io penso che il diritto dei lavoratori a far valere i propri diritti, dei lavoratori, guardi, ancor prima che del sindacato, è un elemento fondante. Io penso di una democrazia che non si ferma ai cancelli di una fabbrica e quindi io su questo non ho dubbi su quale risposta dare al suo quesito. Mi pare che peraltro su questo anche l'organizzazione degli imprenditori ha qualche dubbio a seguire fino in fondo l'amministratore delegato di Fiat. Io penso che su questo bisognerebbe che tutti, almeno dal punto di vista sindacale, io credo anche politico, facessero qualche riflessione, perché se uno mi dice guarda, non c'è niente da discutere, questo è quello che passa il convento, in realtà una vera trattativa non c'è perché non interessa neanche farla, è bene saperlo fin dall'inizio, l'azienda se è in grado procederà in maniera unilaterale, però io credo che non si può solo chiedere a una parte di mettere in discussione le proprie certezze e di avere delle disponibilità. Io penso che la stessa cosa sia giusto e corretto in un paese normale chiederla in questo caso a Fiat come a qualsiasi azienda. Cioè io non credo che uno possa agire come se vivesse in una situazione in cui c'è solo lui e nessun altro. Almeno questa non è l'idea che io ho delle relazioni che vanno tenute con un'azienda. Glielo dico nel momento in cui c'è un vuoto di discussione sull'aspetto industriale che dovrebbe forse interessare almeno quanto quello delle relazioni industriali, perché se no sembra che in questo paese non si possa investire solo perché i lavoratori e qualche sindacato si mettono di traverso. Io penso che questa sia una caricatura. No, ma anch'io perché Belone, del paese penso che non andiamo perché uno ha l'idea di quanto in altre categorie, nei chimici, nella siderurgia, nella ceramica, da decenni ci sono accordi fatti con tutti i sindacati, comprese le articolazioni di settore della CGIL, che sono su turni straordinari, utilizzo degli impianti, eccetera, eccetera. Vale anche, scusi. Sui meccanici e sulla Fiat c'è un problema, questo è ovvio, ma è così. Guardi, su questo lei ha delle informazioni secondo me parziali, perché noi accordi sull'utilizzo degli impianti, anche sugli straordinari, li facciamo quotidianamente. Sì, ma sto dicendo questo. Il settore metalmeccanico e anche in Fiat, e li abbiamo fatti anche a Mirafiori, in anni recenti, quindi non è questo il punto della discussione. No, ma d'accordo, le faccio un'ultima domanda, perché io poi non so, mi avevano informato che poi lei doveva andare via, quindi per questo sto protraendo un pochino di più, vista l'importanza che ha la vostra posizione. No, ma guardi, il processo Thyssen riguarda tutti, stamattina parlano le parti civili. E quindi anche lei adesso ci lascia. Noi siamo parte civili, certo, e quindi certo. Siamo direttamente... Allora, l'ultima domanda, proprio 30 Prego. Secondi, ma se questo porta Marchionne a dire, signori, non ci sono le condizioni, per me oramai l'Italia è un mercato qualunque che posso servire dall'estero e non è più priorità la manifattura perché così non torno inutile, vi saluto e me ne vado, vale la pena di correre questo rischio secondo lei? Ma guardi, io penso che valga la pena correre il rischio di sapere se in questo paese, pur di avere del lavoro, peraltro con garanzie molto relative dal punto di vista industriale, siamo disponibili, la società è disponibile a scambiare qualsiasi cosa. Ecco, io a quella roba lì non sono disponibile, io penso che occorra razionalità. Poi, le ripeto, se uno mi dice, guardi, non c'è niente da discutere, ma che non mi vengano neanche a chiedere di esprimere il mio punto di vista di mettermi in gioco. Perché le trattative, se tali sono e non comunicazioni unilaterali, si fanno in due, se no è un'altra cosa. Se Fiat non ha davvero interesse a investire in questo paese, io spero che non sia così, abbia il coraggio di dirlo, perché io non vorrei che noi ci nascondessimo tutti dietro una foglia di fico, che è appunto quella ricostruzione caricaturale dello stato dell'arte dell'industria italiana, che ci porta a non vedere quali sono i problemi veri di questo paese, che riguardano anche le grandi imprese, Fiat comprese. Va bene, allora lei dice se corriamo questo rischio, che forse però prescinda dalla trattativa, anzi forse la trattativa è una non trattativa, perché quelli non lo vogliono fare l'investimento. Guardi, qua. Ad oggi in parte è stato così. No, però no, ho capito. Dato che siamo in una posizione di impasse, che peraltro non abbiamo generato noi come organizzazione sindacale, altri hanno chiesto pause di riflessioni e la Fiat ha interrotto la discussione, noi non solo siamo disponibili ma interessati a riaprire quanto prima questa trattativa. Beh, ovviamente nella speranza che sia una trattativa vera. Bene, anche in questo senso abbiamo un'iniziativa domani, l'unica iniziativa in campo in una città come Torino, che mi pare sia un po' distratta, ecco. No, adesso questo addirittura lo dico da torinese, più che altro preoccupata, ecco, questo capisco che gli altri dicano tentiamo di evitare passi falsi, esattamente nel momento in cui l'azienda si è alzata e ha detto non ci sono le condizioni e tutti dicono per favore risiediti e parliamo, perché qui la questione è seria, sera per la città, sera per l'Italia, lo sappiamo tutti che è così. Sì, però guardi, io leggo tante dichiarazioni sui giornali, sì, spesso abbastanza scontate, vedo pochissime iniziative, per non dire nessuna. Guardi, iniziative non necessariamente per fare i tifosi, ma anche solo per fare qualche valutazione, qualche ragionamento un po' meno approssimativo. Ecco, vorrei che tutti sfuggissimo dalla tentazione. Come vede, noi per primi, qui la famosa radio di Confindustria, io sono un esterno, io tento di fare capire agli ascoltatori, dando la voce a tutti, perché non è che si può partire dal presupposto che c'è chi è depositario della linea giusta e quella sbagliata. C'è un confronto serio che riguarda uno dei punti tradizionalmente più importanti della manifattura italiana, coincide con la manifattura dell'auto italiana, anche se poi c'è un indotto che in questi anni ha imparato a servire benissimo altre grandi compagnie, grandi case, certo se la Fiat se ne va non è proprio uguale, anche se ci fosse in Italia per quanto ristretta. Allora io ringrazio anche Bellono, andiamo in pubblicità e poi dopo riprendiamo con Fismich e Wilma. 9 in punto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, stiamo tentando di capire, dando voce alle diverse confederazioni sindacali, il punto aperto intorno allo stabilimento Mirafiori nel gruppo Fiat, in una vertenza che dopo Pomigliano, il no della FIOM a Pomigliano e l'accordo passato con la maggioranza dei dipendenti, è andato avanti nell'applicazione delle deroghe al contratto nazionale non firmato, anche quello dalla FIOM, quadro e cornice di deroghe invece condivise con il resto dei sindacati, anche da Federmeccanica. Per Mirafiori c'è un punto aperto aggiuntivo rispetto a queste stesse deroghe e due vie, diciamo così, aperte. Da una parte quella di verificare l'ipotesi di una NewCo che nasca fuori dalla Federmeccanica, definendo insieme ai sindacati che ci stanno le opzioni per un contratto dell'auto aggiuntivo, quindi rispetto ai metalmeccanici, e verificate queste, sottoscritto questo nuovo impegno, poi rientrare in Federmeccanica, o vedere invece qual è il punto che non si riesce a risolvere ulteriormente. Adesso abbiamo con noi Maurizio Peverati, che è segretario della UIM Piemonte, buongiorno. Buongiorno a voi. E Roberto Di Maulo, che è segretario del Fismich, buongiorno a Di Maulo. Mi deve permettere un'introduzione di 60 secondi di scenario. Noi siamo un paese manifatturiero che rischia di rimanere senza industria, anche turistico che rischia di rimanere senza turismo, ma questa è un'altra storia. Abbiamo dei dati che sono impressionanti, emessi negli ultimi 24 ore. Abbiamo la più bassa crescita nei paesi della CE, siamo il terzo paese per pressione fiscale, il primo nell'area euro, abbiamo 1.200.000.000 di ore di cassa integrazione solo nel 2010, siamo il 136° paese per competitività, abbiamo record di disoccupazione per gli under 25, eccetera, eccetera, eccetera, debito pubblico record, ma i maggiori vincoli della UE sui debiti da ieri, e questi dati sono oggettivi e forniti da fonti ufficiali, certo, che narrano di un paese che è in piena crisi. Mi chiedo come mai, di fronte a un'azienda che annuncia 2 miliardi di investimenti in due stabilimenti, riportando produzioni che oggi sono allocate in Polonia, portando per la prima volta nella storia prodotti di alta gamma per il mercato americano in Italia, come mai invece di applaudire e di chiederci come mai abbiamo tanta fortuna, si contesti e si dipinga Marchionne come il nemico? E questa è ora, diciamo, la posizione che ha sentito, perché dice: se ci tocca i diritti preferisco che se ne vada, ma i diritti io li difendo. Ora, è noto, e l'hanno dimostrato insigni giuristi, prima tra tutti Ghino, ma anche lei più volte è tornato sull'argomento, che l'accordo di Pomigliano non mette in discussione alcun diritto acquisito dai lavoratori, che Marchionne non ci chiede di lavorare come i cinesi, ma ci chiede soltanto di rispettare delle regole minime, che sono il rispetto della responsabilità quando si firma un accordo, e di lavorare in fondo come lavorano i tedeschi, gli americani e i francesi, cioè a dire dando affidabilità alla produzione. Gli unici punti che vengono toccati sono i 10 minuti di pausa, che sono compensati sia dal punto di vista salariale con un aumento di 32 euro mensili, ma anche dal punto di vista del minor affaticamento rispetto al passato, e la mezz'ora di mensa che viene, continuerà ad essere retribuita e passerà soltanto a fine turno, continuando ad essere retribuita e con la garanzia che mai avverrà recupero produttivo durante la mezz'ora di mensa. In cambio c'è una crescita salariale di circa 4.000 euro l'anno per i lavoratori per via della maggiore incidenza della turnistica e quindi delle maggiorazioni per turno, e addirittura il fatto che il 18° turno, quando viene fatto, viene compensato con il pagamento dell'indennità dello straordinario. Ora, se di fronte a tutto questo io devo spiegare a mia figlia, che ha 20 anni, che per questi atteggiamenti incomprensibili lei resterà senza lavoro e vivrà in un paese senza più impoverito, mi sembra che siamo in un paradosso. Ed anche la storia dell'inserimento del contratto nazionale mi sembra che sia ampiamente risolvibile. Si possono agganciare le scadenze al 31/12/2012 del contratto autonomo di Pomigliano e Mirafiori a quello del contratto nazionale dei metalmeccanici. Si potrebbe, già lo proposi un'altra volta che fui ospite da lei, se Sacconi vuole dare una mano può prendere la proposta di legge Ichino e farne un decreto legge per la parte che riguarda l'estensione erga omnes dei contratti aziendali. Di questo ne abbiamo riparlato infatti proprio con Pietro Ichino 2 giorni fa in Confindustria a Verona, sì. Certamente sì. Però nelle condizioni in cui sta il governo lei capisce che... Sì, sì, certamente sì. A giugno era messo un po' meglio e poteva fare anche un provvedimento del genere, Sacconi, se voleva dare una mano alle parti. Si può inserire, come ha proposto anche Cesare Damiano, il futuro accordo di Pomigliano e Mirafiori come contratto dell'auto all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro, quindi le soluzioni sono molteplici. Allora mi domando perché tutte queste resistenze da parte di FIOM e tentennamenti da parte di CISL, UIL e di Confindustria? Probabilmente il problema non è nel merito, ma è nel potere dei sindacati, che viene messo meno da un'iniziativa autonoma che rimette in gioco l'establishment costituito tra Confindustria e sindacati. Lei dice, allora le faccio la stessa domanda a tutti: per lei chi non sottoscrive i nuovi accordi poi perde il diritto a presentare liste e avere diritti sindacali nello stabilimento? È giusto che sia così o no? Certamente sì, già oggi a me mi capita questa cosa, per esempio nel commercio. Io non sono firmatario del contratto collettivo nazionale di lavoro, ho rappresentanti sindacali, ma non sono riconosciuti dalle aziende in quanto io non sono firmatario del contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi se capita a me nel commercio, capita ai Cobas in numerose altre parti, non capisco perché non può capitare alla FIOM se non firma il contratto collettivo di Pomigliano e Mirafiori. Qui tocca un punto che secondo me a me fa perché piacere. Perché la FIOM, ha diritti più degli altri. Ecco, vedi. Qui abbiamo toccato un punto sul quale, adesso non c'era rappresentante la FIOM, qui si tocca il punto che è uno dei punti decisivi del non detto intorno a questa storia. Diciamo che nel come hanno funzionato per decenni, per lunga storia, le relazioni industriali italiane, al di là dei diritti che in teoria dovrebbero essere uguali per tutti, ci si riconosce. Quando dico ci si riconosce, ci metto dentro anche una parte importante, importante in Federmeccanica, delle industrie, delle imprese italiane industriali di questo settore. Ci si mette un riconoscimento aggiuntivo per la FIOM e per la CGIL, perché si dice, ragazzi, però guardate che non tanto più nella fascia pedemontana del nord, dove la FIOM comunque pesa proporzionalmente molto meno che negli anni storici, però insomma poi in altre regioni, l'Emilia, la Toscana, eccetera eccetera, ragazzi, senza la FIOM dove andiamo negli stabilimenti? E quindi c'è un punto delicato, delicato, che aiuta a capire anche la riflessione aperta in Confindustria. Lo dico laicamente, perché Di Maulo con questa durezza dice come io già non ce l'ho da altre parti, e perché sono la FISMIC, è chiaro, la FIOM conta di più. Perché conta di più? Questo è uno dei punti del non detto, cioè si tratta di pesare politicamente, per così dire, politicamente, per l'impatto che questo avrà sul futuro delle relazioni industriali italiane, il peso relativo di chi dice no. La opinione mia è che in effetti la scelta verso regole nuove di produzione impone anche di fare questo, perché alla fine altrimenti il potere di veto. Ricordo che Confindustria per anni, fino a Emma Marcegaglia, quando la CGIL si alzò al tavolo di nuove sette industriali, rimase a braccia conserte ad aspettare. Ci ha portato positività alla cosa? Non credo. Poi la maggioranza dei sindacati, senza FIOM e senza CGIL, ha iniziato a definire accordi nuovi. La strada per accordi nuovi è una strada complicata. Abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi ci abbiamo ancora la WILM. 9 in punto, la versione di Oscar. Allora, eccoci tornati alla questione Mirafiori. Che cosa è diverso rispetto a Pomigliano? Che cosa c'è di nuovo e di significativo in questo tavolo da cui l'azienda si è alzata dicendo per il momento non ci sono le condizioni? Abbiamo sentito voci diverse, quelle della FIM CISL e quelle del FISMIC di Maulo adesso, e quelle della FIOM che dice noi abbiamo l'impressione che qui la trattativa sia unilaterale, e poi chissà se davvero lo vogliono fare questo investimento l'azienda. Sentiamo la posizione con Maurizio Peverati della WILM Piemonte invece. Innanzitutto, le fila si possono portare a compimento rapidamente secondo voi, oppure quali sono i punti aperti? Secondo, voi avete l'impressione che questo investimento Marchionne lo voglia fare sì, oppure in realtà alza l'asticella cercando un po' scuse? No, io ritengo innanzitutto che l'investimento si voglia fare. L'unico problema che ho e che dovremmo avere, perché mi sembrano che ci siano un po' troppi sportivi, che è da 4 anni che Marchionne con noi cerca di fare o di tentare relazioni industriali diverse, con approcci totalmente diversi da una Fiat del passato. Mi spiego. Dal momento in cui il carrozzone Fiat di tanti anni fa, che non si capiva quanti anni fa, fino a 4 anni fa, non si capiva se era statale o privata, questa azienda è diventata privata completamente. E diciamolo, per fortuna, lo dico io, non c'ha più gli incentivi pubblici che andavano a lei sì e a tutti gli altri no. Per fortuna, perché noi ci siamo trovati di fronte a situazioni, come lei ben sa, di aziende grosse che ricevono, di aziende piccole che muoiono, perché i sovvenzionamenti sappiamo dove vanno. Quindi è da 4 anni che ci sta spiegando le teorie dell'auto, ci sta spiegando che ci ridurremmo a 6-7 massimo gruppi automobilistici del mondo, no? E deve essere all'altezza poi di soddisfare, di essere competitivi, di stare sui mercati. Quindi noi ancora abituati a fare discussioni pindariche, tenere tavoli 3 mesi per discutere una cosa, è chiaro che uno come Marchionne, che in testa c'ha l'industria, ha dato un'accelerazione mettendo in scacco sindacato, governo e Confindustria. Perché la politica non può mettere becco se un'azienda rimane o non rimane nel nostro paese. Dall'altra parte, Federmeccanica, abbiamo fatto un contratto ed è chiaro che anche sulle deroghe date che alla Fiat non interessavano, e l'ha dimostrato, perché comunque l'ultimo contratto è arrivato giù a Roma, in 3 secondi se n'è andata, comunque dando un grosso dissenso a questa situazione. Il problema adesso è come affrontare e come uscirne da questa situazione. Guardate, la interrompo solo per dire a onor del vero che la mia impressione è che Marchionne però il cambio di marcia lo fa perché capisce a un certo punto che a inizio del 2009 c'è una parte dei sindacati, c'è la UIL, c'è la CISL, eccetera eccetera, che con Confindustria decide di non aspettare più la CGIL, perché gli assetti contrattuali nuovi non è che nascono imposti dalla Fiat. Tradizionalmente la Fiat era sempre stata su posizioni per decenni che, insomma, senza la CGIL e la FIOM a livello nazionale era meglio star fermi. Marchionne, presidente di Confindustria, Montezemolo, presidente di Confindustria precedente, ha preso questa linea qua. Quindi direi, sì, è vero, Marchionne accelera, però insomma, grazie anche al fatto che ci sono sindacati e imprenditori che hanno cambiato la regola, perché sennò Marchionne neanche era in condizione di proporre queste robe qua. Lo dico perché questa secondo me è la ricostruzione dei fatti, però sentiamo. Sì, nel senso che probabilmente quando la Confindustria c'era Montezemolo c'era un patto di ferro con la FIOM CGIL. Esattamente. E poi è stato disatteso. Quindi, essendo stato disatteso, dall'altra parte bisogna trovare soluzioni per uscire da un impasse che ti porta alla distruzione totale. Ci aggiungo un altro pezzo. Ci troviamo in una crisi talmente profonda che diventa anche più facile, no, porre delle questioni e risolverle. In altri momenti non sarebbe possibile. Comunque lei la cosa dice: io all'investimento ci credo. Adesso secondo lei qual è la strada per risolverla? Facendo new con Mirafiori fuori, vedere se si può fare auto fin dall'inizio dentro con le deroghe contrattuali rispetto al regime condiviso con gli altri sindacati tranne FIOM. Qual è la sensazione che avete avuto fino all'ultimo secondo al tavolo? Allora, io credo in modo molto pragmatico. Noi abbiamo una situazione dove la questione del contrattuale si è risolta. O siamo lì, voglio dire, la Newco sarà un momento transitorio per rientrare nel contratto. Dall'altra parte c'è una Federmeccanica che sta lavorando per poter far sì che vengano rispettate le date e in qualche maniera che rientri totalmente, perché sarebbe un disastro, che sia poi il settore del contratto dell'auto, e quindi sono le premesse, tutte le premesse, che la prossima settimana si giunga a una discussione vera con chi ci sta. Il problema di non starci qua in due, per carità, non polemiche, perché poi legittimamente ognuno sceglie la strada che vuole fare, ma ad un incontro della PIA, che la FIOM presenta una piattaforma e nessun punto è stato preso in considerazione, fa pensare, no? Probabilmente parlavamo di altro. Dall'altra parte la FISMI è disponibile a firmare tutto e subito, e l'altro estremo. Quindi noi abbiamo considerato che nella trattativa, come si fanno in tutte le trattative sindacali, ci sia un momento di pausa. La FIA ne ha prese anche lei abbondantemente. Noi pensiamo che i due giorni o tre giorni chiesti di pausa di riflessione, per ragionare meglio cosa significava e come al meglio fare un accordo che portasse, voglio dire, la tutela dei lavoratori, perché non dimentichiamo che oggi la priorità per noi è il lavoro. Due anni fa spiegavo in alcune fabbriche dobbiamo fare un grosso lavoro per dare ai nostri figli il futuro. Oggi devo dire, purtroppo ahimè, devo dire, dobbiamo far di tutto per difendere il tuo posto di lavoro, perché poi nelle nostre sedi sindacali il quarantenne che viene a dire non trovo posto di lavoro, non è possibile, c'ho una famiglia, il giovane che non trova posto di lavoro, quindi noi delle risposte dobbiamo darle. Bene, io desumo dalle parole che ha detto ora conclusivamente Peverati. Avevamo chiesto due giorni quando si è alzata l'azienda, non è che avessimo chiesto la fine del mondo perché volevamo fare la trattativa vera, però insomma in realtà, facendo la somma tra FIM, UILM, FISMIC, la sensazione è si chiude, si va avanti, si fa, si prende sul serio l'investimento, si va a vedere, ma si chiude. C'è il problema posto alla FIOM, che credo sia un problema che difficilmente ci fa immaginare a questo punto la chiusura. A questo punto credo che Federmeccanica, Confindustria debba stare con Fiat. Il punto delicato della rappresentanza è uno solo: se espone al contenzioso giudiziario, cioè impugnative della magistratura ordinaria, rischia di trasformare un grande passo avanti di nuovo verso regole del lavoro e contratti in cui contra di più il contratto aziendale, contra di più il salario variabile, che è l'unica maniera oltretutto per dare più reddito disponibile ai lavoratori. Se finisce nelle mani della magistratura diventa un guaio, questa è la mia impressione. Comunque vedremo nei prossimi giorni. Grazie a Chiara Peverati Bellono e Roberto Di Maolo, grazie a Carmelo Lucena in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, Franco Piantanide, assistente alla diritta, Linea Generale Radio. Noi ci sentiamo lunedì prossimo. Radio 24. La passione si sente.